Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 25 giugno, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori, telespettatori e telespettatrici su Liberi Dentro ed Uradio TV. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me. Buongiorno a tutti e buon ritrovati. Ciao Caterina. Ciao Antonella, e sempre sul nostro programma che va in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Oggi la notizia che vi leggo riguarda il mondo del carcere, sempre. Siamo a Busto Arsizio, detenuti al lavoro per uscire dal giro. E, lo leggo da Milano 7, da COP La Valle di Ezechiele. Perché il tema di oggi sono i progetti della Valle di Ezechiele a favore degli ospiti del carcere della casa circondariale di Busto Arsizio. Dovete sapere che durante la Quaresima 2021 tante persone si sono affacciate alla casa circondariale di Busto Arsizio e mosse dalla sensibilità che ha suscitato in loro i pastori della chiesa locale. Tra questi pastori, Don David Maria Riboldi, che è il cappellano della casa circondariale, che per aprire una finestra sul mondo del carcere, chiedere una mano e sostenere i progetti di rinascita da lui promossi, ha avviato la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele. Caterina, come agisce la cooperativa e quante persone detenute ha coinvolto? Questa cooperativa mira innanzitutto alla raccolta di fondi, borse lavoro a sostegno dell'occupazione di persone in esecuzione penale esterna ed è per questo che porta il nome di Fuori dal Giro, cioè con lo scopo di non far riaccedere a certi giri di delinquenza, di criminalità, le persone al lavoro in cooperativa. Al momento, per rispondere alla tua domanda, sono 4 le persone che lavorano in esecuzione penale esterna al penitenziario. La magistratura ha loro concesso il domicilio a casa grazie all'offerta di lavoro della cooperativa. E cooperativa che si occupa della sbavatura della gomma in conto terzi in un capannone in affitto a Fagnano Olona, che è in provincia di Varese. Senti, come sta andando la raccolta fondi? Come vi dicevo all'inizio, tante persone hanno sentito il bisogno di fare qualcosa di concreto, nonostante questa pandemia abbia veramente colpito tutti e le tasche di tutti, anche questo bisogna veramente dirlo. La raccolta fondi promossa dai parroci nelle comunità cristiane e promossa online sul sito Buona Causa è giunta attraverso donazioni personali a totalizzare quasi la cifra di 26.000 euro. Tanta provvidenza, si è aggiunta anche la Fondazione Giannina, che ha elargito circa 5.000 euro a sostegno dei progetti. Ma non finisce qui, perché grazie a quanto raccolto, il Consiglio d'amministrazione della cooperativa stessa ha inviato il 24 di maggio scorso nell'area educativa della casa circondariale di Busto Arsizio la disponibilità di assumere altre 2 persone, quindi da 4 a 6 detenuti occupati, che potranno così vivere un nuovo ingresso nella società grazie alla proposta di inserimento lavorativo alla Valle di Ezechiele. Questa è una bellissima attività e speriamo che si diffonda a macchia d'olio proprio. Caterina, ultimo giorno con Eminem? Ultimo giorno con Eminem, con Lose Yourself, colonna sonora di 8 Mile, che è il film di Eminem, che ha venduto un sacco di copie, strafamoso, e racconta in particolar modo la sua storia di come è diventato famoso. Vi racconto anche l'ultima curiosità della giornata: è stato pensato il primo rapper a vincere un Oscar, e questo è successo nel 2002, dove è stato premiato per la migliore canzone originale con la sua Lose Yourself, quindi ascoltiamola tutti. Buona opportunity. Seize everything you ever wanted in one moment that you captured. Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know, he won't have it, he knows. His whole back's at these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Yeah. This soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more. He's co-product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soul opera is told. It unfolds, I suppose, his old partner. But the beat goes on. Eccoci, bentornati sempre sulle note di Eminem che ci ha accompagnato tutta la settimana. E ora con te, Antonella, siccome tutte le settimane noi abbiamo un animale del giorno, questa volta di chi ci parli? Oggi parliamo del gabbiano, un volatile che sicuramente avrete visto tante volte al mare, che volteggia sulle nostre teste, magari anche sulle navi quando fanno traversate. Il gabbiano comune è una specie che nidifica alle medie latitudini, dalla penisola iberica all'Islanda, alla Scandinavia e fino alle coste asiatiche del Pacifico. Le popolazioni dell'Europa del nord orientali sono migratrici e sverano prevalentemente lungo le coste atlantiche, dal mare del nord all'Africa nord occidentale e nel Mediterraneo, ma pure nell'entroterra, lungo il corso dei fiumi e nei laghi. E le popolazioni delle regioni sud-occidentali sono solo parzialmente migratrici. Dove li troviamo in Italia? Beh, in Italia ci sono ovviamente, lo sappiamo tutti, li abbiamo visti tantissime volte, ed è il gabbiano è un migratore regolare, svernante e nidificante. E le colonie nidificanti più numerose sono insediate nelle valli di Comacchio, nella laguna di Venezia, in Sardegna e in Piemonte. I contingenti che transitano o sostano per svernare da settembre a marzo nel nostro paese in genere provengono dall'Europa centrale. Il gabbiano frequenta le zone umide d'acqua dolce, salmastra e salata, naturali o artificiali che siano, costiere o dell'entroterra. Eppure presente nei laghetti e lungo i fiumi all'interno delle città. Abitualmente si porta nelle discariche di rifiuti urbani e questo lo sappiamo perché il gabbiano appena sente che c'è del cibo in giro si precipita a mangiarlo. Non è difficile infatti vederlo anche nelle nostre città. Ha abitudini gregarie e durante la nidificazione si riunisce in colonie più o meno numerose. Possiede un volo agile e cammina abbastanza bene. Per ricercare il cibo si tuffa anche nell'acqua. Si ciba di pesci, crostacei, molluschi, insetti e le loro larve, anfibi, rettili, nidiacei e piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anche topi tra l'altro, e di granaglie, semi vari, tuberi, erbe, alghe e sostanze di rifiuto. Diciamo che è onnivoro da questo punto di vista. Per quanto attiene invece alla riproduzione, la stagione riproduttiva è compresa tra aprile e luglio e nell'anno compie una sola covata. Per nidificare la colonia si insedia nelle zone marine costiere, nelle paludi, sulle sponde dei laghi, nelle brughiere e nelle zone steppiche. Gli accoppiamenti sono preceduti da parate nuziali e da atteggiamenti ostili tra contendenti, come succede in varie specie animali. In genere vengono deposte tre uova ad intervallo di un giorno dall'altra. Sia la femmina che il maschio si dedicano alla cova per 23-24 giorni e i pulcini abbandonano il nido pochi giorni dopo la nascita e vengono allevati da entrambi i genitori. Dopo un mese i giovani sono atti al volo. Famoso è il libro Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, non so se lo ricordate, andava molto negli anni 80, 70-80. Jonathan Livingston è un gabbiano che abbandona la massa dei comuni gabbiani, per i quali volare non è che un semplice goffo mezzo per procurarsi il cibo, e quindi insomma niente di particolarmente nobile, ma utile al procacciamento di cibo, appunto, e impara a seguire il volo come atto di perizia e intelligenza, fonte di perfezione e di gioia. Diventa così un diverso, ma anche un simbolo, la guida ideale di chi ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore, di chi prova un piacere particolare nel far bene le cose a cui si dedica e che è, come dire, responsabile e cosciente delle proprie scelte un po' fuori dal gruppo. Voglio solo aggiungere che il gabbiano comune è una specie protetta, il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza. Questo lo sancisce la Convenzione di Berna e anche una legge italiana dell'11 febbraio 1992, la numero 157. My gentle relations have names they must call me for loving the freedom of all flying things. My dreams with the seagulls fly out of reach, out of sight. Stars paid a light bill, and the blossoms hung false on their store window trees. My dreams with the seagulls fly out of reach, out of city and down to the seaside, the sun on my shoulders and wind in my hair. But sandcastles crumble and hunger is human, and humans are hungry. Seagulls fly out of reach, out of cry. I call to the seagull who dives to the waters and catches his silver fine dinner alone. E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Du Radio. La nostra ospite di oggi è Lorenza Cenacchi, che in realtà molti di voi conoscono dall'anno scorso. La sua voce, il suo volto, forse te lo ricordano. Buongiorno Lorenza. Buongiorno Caterina, grazie per l'invito. Dicevo, ti ricordano perché hai prodotto le puntate Du Radio Ferrara lo scorso anno e sei anche docente di diritto ed economia presso il liceo Carducci di Ferrara, e hai fatto una cosa, avete fatto insieme agli altri insegnanti e assieme all'associazione Libera nel progetto Concittadini, un progetto bellissimo negli ultimi mesi, a partire dal 5 marzo al 20 di aprile, incontrando i ragazzi delle scuole superiori. Per questo progetto, dicevo, chiamato Disarmiamo le mafie, ma raccontacelo un pochino. Certo, saluto tutti, di nuovo grazie a Eduradio per avermi invitata e grazie per continuare insieme a noi di Ferrara questo meraviglioso progetto. Quest'anno sei classi della provincia di Ferrara, in particolare quattro classi del liceo Carducci e due classi dell'istituto Remo Brindisi del Lido degli Estensi hanno partecipato al progetto Concittadini dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, con il coordinamento dell'Associazione Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le Mafie. Il percorso, condiviso con altre città della nostra regione, ha preso il nome di, come diceva Caterina, Disarmiamo le Mafie. L'iniziativa era diretta a coinvolgere gli studenti in incontri con esperti e persone coinvolte a trattare aspetti diversi delle violenze delle mafie, per formare giovani che sappiano contrastare quel clima di violenza diffuso e anche le diseguaglianze sociali attraverso il loro impegno. Il coordinamento di Ferrara ha individuato il carcere come luogo delle diseguaglianze, un luogo sconosciuto, isolato dalla comunità, un luogo in cui oggi accade l'esatto contrario del distanziamento sociale richiesto dai decreti del governo per frenare il contagio per coronavirus, per via del tasso di sovraffollamento. Ma è anche il luogo in cui in tempi normali dovrebbe avvenire la rieducazione del condannato, come viene indicato nell'articolo 27 della nostra Costituzione. Purtroppo però in questo luogo ci troviamo di fronte ad un doppio isolamento, l'isolamento che ha colpito tutti noi e che ci ha fatto capire quanto sia importante la libertà come bene primario. E nello stesso tempo l'isolamento dovuto allo status di detenuto, che è una persona dimenticata che scompare dietro le sbarre per ritornare in società dopo aver scontato la pena. Tuttavia, la città, nella maggior parte dei casi, è lontana dal carcere, pur ospitando il carcere nel suo territorio. E questo isolamento produce diseguaglianze, quindi forme di violenza. Noi abbiamo individuato appunto le diseguaglianze come fonte indiscutibile di violenza. Ecco, e appunto in questi incontri diversi con i ragazzi, l'ultimo è stato proprio dedicato al tema del carcere. Allora, una domanda proprio prima di lanciare la musica, volevo chiedere, poi ci ritorneremo anche dopo, volevo chiederti se i ragazzi hanno manifestato degli stereotipi riguardo al carcere. Mi sono molto stupita di questo perché abbiamo fatto un lavoro di approfondimento sul carcere, abbiamo incontrato persone che si occupano di carcere, quindi abbiamo incontrato Orazio Certoc del Teatro Nucleo, abbiamo incontrato la professoressa Carnevale che è stata garante comunale dei detenuti e per ultimo abbiamo incontrato te, Caterina e Ignazio, che ci avete raccontato dell'esperienza di Eduradio. Ebbene, siccome i ragazzi erano molto restii a parlare direttamente con me della loro esperienza riguardo appunto questi incontri, ho pensato di fare una sorta di questionario anonimo. E dal questionario anonimo poi sono nate diverse sollecitazioni che ho cercato di approfondire in classe. E queste sollecitazioni poi sono state trattate in classe ed è nato come una sorta di discussione che ha messo in evidenza che la maggior parte di loro non ha stereotipi, anzi io considero le loro menti piuttosto libere dai pregiudizi, tanto che hanno pensato di fare delle piccole registrazioni con quelli che potevano essere i loro interventi più significativi e da questo è nato un importante documento, un file, possiamo definirlo un video, nel quale raccontano cinque punti importanti che poi vi spiegherò nella prossima parte dell'intervista. Infatti, stavo per chiedere di lanciare la musica di oggi. Allora, la canzone che ho scelto, la prima canzone è La cura di Franco Battiato, per ricordare il grandissimo cantautore al quale io ero molto legata. Per una visione di amore nel suo significato più ampio e profondo. Ti proteggerò Ascoltiamola. dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Rieccoci sulle note di Franco Battiato, lanciato dalla nostra Lorenza Cenacchi. Stiamo parlando con te, per l'appunto, Lorenza, su questo bellissimo progetto insieme a concittadini di Ferrara e a Libera contro le mafie, Disarmiamo le mafie, fatto insieme ai ragazzi delle scuole superiori del liceo Carducci. Certo. E io prima ti ho chiesto se i ragazzi hanno stereotipi sul carcere e tu mi hai dato una risposta bellissima che mi ha riempito anche di gioia, e spero anche chi ci ascolta dalle case circondariali, perché i ragazzi non ne hanno, almeno sembra così. E allora ti volevo chiedere cosa ha colpito i ragazzi riguardo al carcere. Certo, i ragazzi sono stati colpiti moltissimo sul tema delle diseguaglianze presenti nel sistema penitenziario. Hanno rilevato il fatto che dentro il carcere non ci sono diseguaglianze, almeno questa è la loro idea, mentre le diseguaglianze si manifestano fuori, nelle relazioni con la società. Cioè fuori dal carcere le diseguaglianze sono molto pronunciate, perché chi è stato in carcere poi non riesce a reinserirsi nella comunità. Altra cosa importante è che hanno rilevato il fatto che l'isolamento non possa essere utile per la rieducazione del condannato, anzi il condannato dovrebbe essere circondato da molte persone che vengono da fuori dal carcere. Ed inoltre la risocializzazione del detenuto può avvenire soltanto se di risocializzazione si parla già dentro il carcere. Infine ho chiesto loro di avanzare delle proposte per sensibilizzare la città sul tema dell'isolamento delle persone detenute, e hanno fatto diverse proposte, ad esempio proposte riguardo il lavoro che deve esistere dentro il carcere, attività ricreative, teatro, sono stati molto colpiti dal teatro e anche dalla radio, quindi il coinvolgimento in attività culturali hanno ritenuto sia molto importante. Grazie Lorenza, e allora anticipiamo già a chi ci ascolta e ci sta vedendo in questo momento che potranno vedere questo teaser, questi due teaser prodotti dai ragazzi. E assolutamente. Quindi saremo nelle rubriche Oggi parliamo di, che sono subito successive ai nostri Buongiorno di Eduradio. Quindi intanto ci ha fatto piacere avere un full immersion con te e ti chiedo di lanciare l'ultima canzone di oggi. Certamente, intanto ringrazio gli ascoltatori e chi ha seguito questo momento di condivisione con Caterina, ringrazio Caterina e ringrazio Eduradio per avermi ospitata. La seconda canzone che propongo è una canzone dei Pink Floyd che parla di educazione ed è Another Brick in the Wall. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the E rieccovi, il venerdì di Eduradio si conclude con la testimonianza di questa docente alle scuole superiori di Ferrara, dove abbiamo presentato il progetto Eduradio, e ascolterete anche sulle rubriche, oggi parliamo di i lavori di questi ragazzi delle scuole superiori, quindi ringrazio molto Lorenza Cenacchi. E tra poco, con le rubriche oggi parliamo di, avremo la spiritualità islamica e la cultura araba e a seguire lettere dal carcere. Ma non vi abbandoniamo neanche il sabato e la domenica, quindi sabato c'è la cappellania, a seguire il teatro del fratello e poi a seguire ancora la rubrica di cucina Lost in Translation. E infine la domenica iniziamo col CPA di Bologna con School on Air e a seguire il teatro Argin. Buona giornata a tutte e tutti e soprattutto buon fine settimana, e noi ci rivediamo sempre con le nostre puntate dei Buongiorno di Liberi Dentro il prossimo lunedì. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.